Ringraziamo innanzitutto Walter per la consueta regia, ringraziamo l'Oliva per il solerte contributo, ma soprattutto ci auguriamo che l'Oliva da martedì prossimo sia con noi con cuore coronarie e carne qui sulla poltrona a fianco alla nostra. E poltrona si fa per dire. Ringraziamo tutti voi per l'ascolto, grazie della pazienza dimostrateci. A martedì prossimo alla stessa ora. Buonasera.